I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Occupiamoci oggi dell'andamento del prezzo del petrolio. La regina delle materie prime, infatti, aveva sempre avuto andamenti intanto molto lineari e graduali e in secondo luogo molto legati all'economia. Quello a cui assistiamo invece in queste settimane è un prezzo del petrolio che assomiglia ad alcuni titoli molto sottili delle borse più speculative. Prezzi sulle montagne russe, un più 5% un giorno che diventa un meno 8% il giorno dopo. Una cosa mai vista per l'oro nero, ma che ha alcune spiegazioni. In primo luogo, gli errori commessi dagli stessi paesi produttori di petrolio. L'organizzazione più importante dei paesi produttori di petrolio ha infatti mantenuto i prezzi bassi, scommettendo che in questo modo avrebbe espulso dal mercato tutti i produttori di petrolio statunitensi che lo estraggono attraverso le sabbie bituminose del Nord America. Un prezzo del petrolio troppo basso, si diceva, non avrebbe reso più conveniente quel tipo di estrazione. Ma non solo questa scommessa si è rivelata sbagliata, l'America continua a produrre petrolio dalle sabbie bituminose e a mantenere la sua autosufficienza. Questa scommessa si è rivelata ancor più sbagliata e sballata nel momento in cui l'Iraq ha aumentato la sua produzione e l'Iran ieri ha fatto sapere che potrebbe nel giro di 5 mesi aumentare la sua produzione di 1 milione di barili al giorno, portandolo da quasi 3 milioni a quasi 4 milioni. Errori previsionali e analisi sbagliate che hanno portato il greggio sull'otto volante. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Manca ancora un mese e mezzo al varo del disegno di legge di stabilità, ma è chiaro che Matteo Renzi non intende affatto rinunciare all'abolizione delle tasse sulla prima casa, promessa a più riprese. Lo ha ribadito ancora oggi, replicando alle indiscrezioni secondo cui la Commissione europea non vedrebbe di buon occhio il taglio del prelievo immobiliare. E Renzi lo ha detto chiaramente: il 16 dicembre sarà il funerale della TASI, si pagherà cioè la seconda rata del 2015 e poi dal prossimo anno la tassa sparirà. Guardando sempre alla legge di stabilità c'è però un altro tema, ed è il tema delle pensioni, sul quale le intenzioni del governo non sembrano altrettanto chiare. L'obiettivo è di ammorbidire la riforma Fornero, di rendere più flessibile l'accesso alla pensione, anche perché, e oggi lo hanno fatto intendere sia il ministro Poletti sia il presidente dell'INPS Boeri, questo allentamento potrebbe avere effetti positivi sul mercato dei giovani e aiutare i giovani a trovare un'occupazione. Però, insomma, individuare una soluzione non sarà facile, specie una soluzione in grado di conciliare da un lato le esigenze dei conti pubblici, perché ogni modifica alla legge Fornero peserà sulle casse dello Stato, sia l'esigenza di non scaricare sui lavoratori il costo dell'uscita anticipata, cosa che evidentemente renderebbe non conveniente qualsiasi forma di flessibilità e uscita anticipata dal mondo del lavoro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.